andando a piedi da Lodi a Caviaga, di fianco al fosso ci devi passar. Se guardi dentro non so se mi credi, ma un po' di tutto tu ci puoi trovar. Scarpe, scarponi, scimazze, guantoni, bond argentini ed una cyclette. Un uomo allibito, un anello condito, due sanguisughe, un servizio da te. Rosa giocava con l'immaginazione, alle signore che bevono il tè, con tazze, teiera, cucchiaio e un limone, ma neanche un'amica giocava con lei. Chiedeva ogni giorno a tre o quattro persone, le disse di no, perfino sua zia. Divenne il servizio da te un'ossessione, finché lo prese per buttarlo via. E va Taglia in campagna, e va dal giun del Fos, e va l'acqua la bagna, e va porta via Triscos. Mario besava chili 39, quando di anni ne aveva due o tre, crescendo divenne più grasso di un bove, lì si decise a comprar la cyclette. Quanta fatica, ma dopo il sudore, vigliacca la fame si faceva sentir, di giorno bruciava, di notte mangiava, di un etto in 10 anni riuscì a dimagrir. Sposò Marta il 2 di settembre, mi vuoi sposare? Rispose bien sûr. Peccato che poi al 21 di novembre lei lo tradì con il suo manicure. Tremenda vendetta, pensò con un salto, Fausto la fede le voleva levar. E mentre l'amante le metteva lo smalto, le tranciò di netto l'intero anulare. Del